24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. I rapinatori con uno stratagemma sono riusciti ad entrare all'interno dell'appartamento. In Italia viene svaligiata una casa ogni 2 minuti. Rispetto alla popolazione residente, le province italiane più bersagliate sono Asti, Pavia e Torino. E il nord-est, la zona d'Italia più colpita dai furti in casa. Hanno chiuso madre e figlia a chiave in una stanza. Stavolta mi hanno rotto la serratura. Come la volta scorsa anche mi hanno rotto la serratura. E sono spese per una pensionata, è un disastro. Hanno lanciato delle pietre anche abbastanza grosse per lo scopo di bloccarmi e fermarmi. Cosa più brutta per me è la violenza psicologica, che ti hanno messo le mani nella tua roba. Nel 2013 sono state denunciate per furti in abitazione oltre 15.000 persone. Di queste, 6.600 sono state arrestate e i detenuti per furto sono circa la metà degli arrestati, 3.500. Ho trovato il vetro della porta rotto. Mi hanno puntato la pistola alla schiena, mi hanno legato le mani con una striscetta di plastica, quelli che usano gli elettricisti. Non riuscivo più a respirare, allora per questo mi sono difeso, le ho tirato su il basso montagno, visto che era di pelle chiara, comunque non oscura. Insieme ai furti in casa sono aumentate le rapine con violenze o minacce alle persone, commesse principalmente al sud, e registrano un aumento del 3,7% solo nell'ultimo anno. Buongiorno, Andrea Di Nicola, ricercatore in criminologia presso l'Università di Trento e coordinatore dell'Istituto di Ricerca e-Crime. Negli ultimi 10 anni, dottor Di Nicola, i furti in casa sono aumentati del 127%. Ma c'è una differenza tra reati effettivi e reati percepiti? Assolutamente sì, quel numero parla dell'oggettività del crimine, quello che succede, ma quello che viene denunciato, poi quello che sentiamo e quello che percepiamo è diverso e spesso è anche non collegato all'oggettività della criminalità. Ecco, ma quali fattori pesano su questa percezione, diciamo? Beh, provate a pensare all'insicurezza economica, all'insicurezza sociale, provate a pensare al degrado, all'illuminazione, alla scarsa visibilità delle nostre città, un disegno urbano che non ci aiuta, alla vivibilità delle città. Ci sono città europee come Helsinki e Copenaghen, quindi situate in luoghi e latitudini completamente diversi, dove ci si sente molto sicuri, le persone si sentono sicurissime soggettivamente, ma lì ci sono 3 volte gli omicidi che ci sono a Roma. Il furto, spesso, soprattutto il furto in abitazione, quello determina l'insicurezza, ma il reato di cui abbiamo più paura è poi il reato violento. Ora, un aumento dei furti in abitazione è collegato a un senso di sicurezza e insicurezza. Ma quindi lei dice che c'è più paura dove c'è meno violenza? Assolutamente sì, in stati come l'Italia, la Grecia, la Spagna, quelli mediterranei dove c'è meno violenza oggettiva, si ha più paura soggettiva, vuol dire che c'è più senso di insicurezza, vuol dire che questo è collegato a qualcos'altro. E dobbiamo chiederci che cos'è, dobbiamo lavorare nelle nostre città anche per ridurre questa insicurezza, oltre che ovviamente per ridurre i reati. Senta, lei è autore del primo progetto europeo di sicurezza urbana predittiva, cioè dei furti si possono davvero prevedere? Assolutamente sì, i furti e anche le caratteristiche degli autori. I furti hanno soprattutto quelli in appartamento, quelli nelle nostre abitazioni, hanno una componente razionale e quindi l'autore di furti non vuole finire in galera, non vuole finire arrestato e spesso è un autore seriale, ecco perché ce ne sono tanti. La stessa persona che viene arrestata ha spesso commesse 10-15 furti, quindi fa delle cose simili. I furti sono ricorrenti, spesso capita che quando noi subiamo un furto in un appartamento, nelle 2 settimane successive verremo rivittimizzati, non lo si dice abbastanza, quindi proteggersi in fretta. Perché l'autore del furto vuole ridurre i rischi, vuole fare cose facili, oppure racconta ad un altro criminale semplicemente che in quella casa ci sono cose da rubare, oppure semplicemente sa che ci ha rubato il televisore che presto lo rimpiazzeremo e magari lo rimpiazzeremo di ultima generazione e quindi ritorna. Ora, immaginatevi quindi la possibilità di avere informazioni dalla città sui reati denunciati, sulle caratteristiche dei reati e sulla collocazione geografica dei reati e di metterli insieme a, oggi si chiama chiama smart city, le città, certo, diventano intelligenti, le nostre città guardano i nostri movimenti, il traffico, il meteo, quindi... sanno quante macchine ci sono nei parcheggi. Ecco, queste informazioni possono essere usate a fine di gestione della sicurezza urbana. Senta, ma quindi ci sono quartieri, giorni, orari più a rischio? Assolutamente sì, dipende dai movimenti delle persone, dai luoghi in cui si trovano le nostre abitazioni, dalla pioggia ad esempio, dal traffico, ma vale anche per i furti nelle auto o delle auto. Quindi, no, ma restiamo sugli appartamenti. Lei diceva che si può fare addirittura una skill, in un certo senso un ritratto di chi è il ladro d'appartamento. Le faccio un esempio così possiamo capire. Si parla tanto di un aumento dei furti. Sì. Nessuno dice che una buona parte di quei furti in abitazione sono furti nelle pertinenze, cioè nei nostri garage. E quindi parla quel tipo di furto di un tipo di ladro. Certo, naturalmente. È molto diverso il ladro professionista che mi entra cioè in casa. Cioè la maggioranza dei furti è nelle pertinenze, Una buona parte sta crescendo questo, quindi anche un'informazione, una ricerca consapevole aiuta a difenderci. Sapere che mi rubano la bicicletta, magari l'ultimo modello dal garage, è un po' diverso che entrano in casa e spaventano tutta la mia famiglia e me stesso. Certo. Meglio evitare entrambe le cose. Se quello però sarebbe se devo... meglio. Senta, ma aumentare il numero delle forze dell'ordine serve a poco, insomma. Guardi, in Italia abbiamo 466 poliziotti, intendo tutte le forze di polizia, ogni 100.000 abitanti. In Finlandia e in Danimarca ne hanno 150-190 ogni 100.000 abitanti, cioè un quarto. Lì si sentono più sicuri, in Finlandia e in Danimarca. Quindi forse la soluzione non è quella, anche perché io credo non è che possiamo andare a chiedere il controllo della nostra vita. Ma allora scusi, ma allora sono i cittadini che si devono autoproteggere? Beh, noi come italiani pensiamo che spesso demandiamo totalmente il controllo della sicurezza delle forze di polizia, proteggetesi, ma io preferirei che un poliziotto mi protegga dall'omicidio rispetto al furto in appartamento. E forse vabbè, ma autoproteggersi cosa significa? Armarsi? No, assolutamente, come criminologo che studia queste cose direi di no, gli omicidi dipendono dalle armi, più armi abbiamo più omicidi ci saranno. E allora come ci si autoprotegge? Guardi, se io dico al mio vicino che mi ha appena detto che ha subito un furto in appartamento, attenzione perché nelle prossime 3 settimane è altamente probabile che lo risubirai, questa è protezione perché lui non abbassa la guardia. E invece il mio vicino mi dice, ma guarda, io penso che sono stato sfortunato, non mi capiterà almeno per un po' di anni. Cioè esattamente l'opposto, anche la conoscenza diffusa e le istituzioni, anche quelle amministrative, le locali, insomma, noi stiamo lavorando a questo in questo progetto di security, cioè? possono avere un ruolo nella consapevolezza. Cioè, che ruolo in concreto? Mi fa un esempio. Informazione adeguata. Sapere e conoscere vuol dire anche difendersi. Questo non vuol dire che dobbiamo lasciare tutto nelle mani dei ladri e dobbiamo pensare che la polizia non ci possa aiutare, non sto dicendo questo. Certo. Ma è efficiente alcune volte difendersi da soli, soprattutto per alcuni tipi di reati che sono, noi criminologi li chiamiamo bagatellari, forse non è una bella parola, però ci fanno paura ma non piccole sono più gravi. Certo. Un piccolo furto mi dà assolutamente fastidio. Mi dà una sensazione di violenza, personale. Sì, oppure, anche, sì. Esattamente, mi stanno violando la mia intimità, la mia casa. Queste sono cose assolutamente senta, gravi. No? Senta, dottor Di Nicola, in Italia si verifica un furto in abitazione ogni 2 minuti. Il governo ha deciso di innalzare la pena minima per questo reato da 1 a 3 anni, la massima 6-8 anni. Sono grida manzoniane, misure inutili oppure utili per scoraggiare? Guardi, fin da Beccaria, studioso della razionalità criminale di tanti anni fa, si diceva che le pene devono intanto essere inflitte, non devono essere alte. Certo. Non è l'innalzare la pena che fa cambiare le cose. Niente grida manzoniane. Si può fare moltissimo altro che funziona anche, usando magari meno risorse. Ecco, 9:17, 24 secondi, sentiremo tra poco il vice ministro Enrico Costa, cosa pensa di questo innalzamento di pena delle grida manzoniane. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666. Ma intanto sentiamo il presidente dell'associazione installatori, il Via il Blob. Tra milioni di italiani cresce la paura dei ladri di appartamento. Fare ladro è stata sempre la mia passione, però da quando ci sono queste allarmi, sicurezza è diventata impossibile. È un bunker. Cosa? Una stanza blindata. È un po' come le roccaforti del Medioevo. Pareti in calcestruzzo. Quindi per sé bisogna avere una buona porta strutturata in modo molto adeguato. Cos'è stato quel rumore? Le serrature per impedirci di uscire da qui. Poi ho scoperto che nel mio condominio sono l'unico a non avere l'allarme sicurezza. Praticamente sono l'anello debole della catena. Altrimenti che viene un ladro a rubare, l'unico appartamento che può rubare è il mio. Vuoi rubare 20 milioni in un palazzo con il miglior sistema di sicurezza del mondo e sorvegliato 24 ore al giorno? Noi siamo operiamo in questo campo da circa 15 anni, facciamo sistemi di videocontrollo, anche particolari. E da questi monitor si può controllare praticamente ogni angolo della casa. E se qualcuno forzasse la porta? È d'acciaio, acciaio molto spesso. E telecamere anche occultate, facciamo sistemi di sicurezza che consentono alle persone di circolare all'interno dell'ambiente. Non posso più entrare. Possono entrare in casa. È la mia stanza, è decisamente la mia. Se mi cerchi, vivrò in questa scatola. Aldo Coronati è il presidente dell'Associazione Installatori Professionali di Sicurezza. Ecco, con la crisi, la domanda di sicurezza è cresciuta? Sarebbe cresciuta come volontà. C'è un problema di soldi? Ecco, nella voglia di spendere, ecco, la paura di spendere. Certo. Si ricorre a voi prima o dopo il furto? Molte volte ricorrono dopo. E i ladri dove vanno principalmente? Allora, se parliamo di abitazioni, sicuramente preferiscono quelle che gli risultano già non protette. Se vedono che è un'abitazione e ovviamente anche gli orari, ecco, gli orari. Sostanzialmente loro seguono le loro vittime prima di fare il colpo. Sicuramente sì. Sì, voi avrete un'esperienza in questo senso, no? Avrete capito qualcosa del genere. Certo, cioè, sono 40 anni che faccio questo mestiere. Ecco, ma capita, le faccio una domanda che può essere brutale e indiscreta, ma capita che installato il sistema di sicurezza anche gli installatori poi, insomma, o danno segnalazioni o sono loro che colpiscono, nel senso che voi potete assicurare che non capiti questo? Diciamo che in buona parte l'associazione era nata anche per questo, per cercare di professionalizzare da una parte, ma anche di avere una grossa etica, una grossa, un grosso senso, ecco, di serietà. Insomma, dare una garanzia, insomma, di qualche tipo. Ma per lo più, parliamo sempre di abitazione, si tratta di professionisti o di ladri improvvisati? Molto di più questa seconda. Categoria, sì? Perché oggi fra disoccupati, fra immigrati, fra gente che ha bisogno comunque di sopravvivere, certo, allora il tentativo di furto, che non è sicuramente mirato, ma va sperando di trovare qualcosa esatto, è più i ladri improvvisati, e quindi in un certo senso è anche più pericoloso. Potrebbe essere quando specialmente capita che sono entrati con la gente dentro. Infatti, certo, una domanda che mi viene fatta frequentemente a tutti i nostri associati, sì, anche, è quella di potersi sentire più sicuri quando dormono in casa. Ecco. Sono ripetitivi, cioè un ladro che opera magari in una certa zona colpisce anche lo stesso appartamento più volte? No, direi di no. Anche perché immaginano poi che subito dopo ciò che è avvenuto questa persona magari abbia fatto qualcosa a propria tutela. Ecco. A propria tutela, nell'ordine, lei cosa suggerisce per fermare un topo d'appartamento? Porte, finestre blindate, allarme, videocamera? Certamente, allora, l'impianto d'allarme è anche il più appariscente, nel senso che si nota una sirena, una cosa. Noi abbiamo dei dati, per esempio, le abitazioni sono toccate quasi quasi una su 10. Cioè c'è veramente una percentuale altissima. Altissima proprio, sì. Ecco, in questi casi però vediamo che il raffronto con abitazioni invece che abbiamo protetto, ecco, sì, dove c'è l'impianto d'allarme, la percentuale che io sto raccogliendo come associazione dei nostri colleghi diminuisce. È 1,5 per mille. Ah, quindi diciamo che l'impianto d'allarme è quello che spaventa di più e garantisce di più in qualche per modo. Due motivi. Sì. Uno, perché segnala, quindi uno fa rumore, essere, diciamo, ricordato e visto. E poi abbiamo un dato certo di luogo e di ora, certo, per cui anche le forze dell'ordine che dovessero attivarsi per muoversi in sanno dove è avvenuto, perché viene segnalato, certo, ovviamente, e a che ora. Ma quanto si attivano? Qual è la percentuale, come dire, dei ladri perseguiti e trovati? Abbastanza bassa. Ecco, immaginavo. Abbastanza bassa, è più elevata dove in effetti è stato segnalato. Certo. Perché se invece io torno a casa alle 7 di sera e ho già avuto il furto, è avvenuto alle 14, alle 15, alle 16. Alle... Senta, per chiudere, dottor Coronati, ma quali sono i modi più comuni usati dai ladri per introdursi negli appartamenti? allora la faccio sorridere. Ha presente il succhiello, quello che in dialetto si diceva il trivelin? Ecco, bucano la finestra, aprono la maniglia, non si accorge nessuno, entrano, una cosa di una semplicità estrema. Senta, ma un'ultimissima, ma i cani da guardia servono qualcosa o sono un soprammobile? Qualche cosa servono nelle abitazioni che risultano recintate, che hanno eventualmente un animale libero, oppure nell'appartamento. Fanno quel rumore che dovrebbe fare l'impianto d'allarme, ecco, abbaiando magari attirano... Un cane d'allarme, va bene. Ok, grazie dottor Coronati, grazie. 923 51 800 24 0024 numero verde 349 238 6666 gli sms sono moltissimi che ci scrivono e telefonano. I furti li fanno nelle case dei professionisti che fanno il nero, è come dire, molti sms in con questa di questo tenore. Qui ad Arena Po ci sono furti giornalieri. Mio padre fa antifurti da 40 anni, ma se si mettono degli impianti a bassissimo costo, poi non servono niente. I ladri non scontano la pena. 1-3 anni la stessa cosa. Il mio ladro denunciato, l'ho incontrato in un bar un mese dopo il furto. È una vergogna. Beh, sentiamo Enrico Costa, vice ministro della giustizia. Abbiamo sentito, i furti in appartamento sono aumentati vertiginosamente e abbiamo anche detto che la sensazione è che intanto non si viene puniti. Voi come risposta? Avete inserito un emendamento nel testo di riforma del processo penale, ma esattamente cosa prevede questo testo? Noi abbiamo l'obiettivo di fare in modo che non ci siano le porte girevoli, abbiamo l'obiettivo di fare in modo che quando vengono colti i responsabili, questi non escano immediatamente dal carcere. È necessario quindi la certezza della pena, è necessario un aumento delle pene minime. Quindi diciamo, onorevole Costa, l'aumento della pena è finalizzato a bilanciare i benefici condizionali, così? Sì, no, l'aumento della pena, perché ci sono delle pene minime che sono troppo basse, attraverso degli accorgimenti processuali. Sì. Tanto per fare un esempio, il bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, questo determina un meccanismo che porta una diminuzione, un abbattimento fortissimo delle pene, e quindi chiaramente l'inefficacia della sanzione. Inefficacia. Quindi diciamo, onorevole Costa, da Manzoni in poi però quasi tutti sostengono che aumentare la severità delle pene non è un deterrente per chi commette reati, ma spesso diventano, diciamo così, grida appunto manzoniane. È sempre un rischio che c'è questo comunque. Questo è vero, però è necessario evidenziare che ci sono per esempio dei meccanismi tipo quello del divieto di bilanciamento di circostanze che non attiene alla pena, ma attiene al meccanismo processuale, che sono convinto che produrrà degli effetti. L'effetto quindi... qual è? Quello che la pena deve essere certa, che quando viene preso o responsabile, questo sconti. Prende 3 anni e fa 3 anni o 2 anni o quello che è. No, perché spesso l'aumento della pena è la soluzione demagogica per quando non si sa che fare, poi sostanzialmente. No, questo assolutamente no. È evidente anche che ci sono delle frustrazioni nei cittadini che determinano molto spesso anche la carenza di denuncia nel momento in cui... Sì, perché non ci si crede più sostanzialmente. E molto spesso non c'è la risposta da parte dello Stato sull'attività di indagine che è stata svolta, se è stata svolta. Anche sotto questo profilo andrà fatta una riflessione. È necessario che tutti abbiano un riscontro dell'attività, dell'impegno che c'è stato, indipendentemente poi dal fatto che abbia avuto un esito favorevole. Senta, onorevole Costa, un'ultima cosa. Ad Helsinki, per esempio, ci sono il doppio degli omicidi di quanti ce ne siano in Italia. Però le ricerche ci dicono che i cittadini svedesi si sentono più sicuri di quelli italiani. Perché gli italiani si sentono a rischio? Cioè il rischio percepito è molto maggiore. Come mai? Ci sono autorevolissimi studi a livello criminologico che evidenziano proprio questo aspetto, la percezione del cittadino su tutta una serie di parametri evidenzia una percezione di insicurezza, indipendentemente dai numeri. Noi però vediamo che aumentano quei reati che colpiscono nell'intimità, non soltanto nel patrimonio dei cittadini. Quando no, ma certo, i furti in casa, per esempio, questo è quello che quello chiaramente è molto... aumenta la percezione. Ci sono altri reati che magari diminuiscono e quindi in termini assoluti il numero di reati del panorama nazionale diminuisce, ma aumentano quelli che colpiscono di più, l'intimità. Beh, insomma, Mario, aumentare le pene, ma se poi, come diceva quell'ascoltatore che ci ha scritto, ha incontrato al bar un mese dopo chi ha rubato a casa sua, è tutto un problema di certezza, no? Diciamo, come poi sempre. Poi anche i carabinieri in genere non entrano nelle case nel timore che ci siano ancora i ladri, no? Anche se li chiami spesso, così ci scrive Paolo, a lui è capitata questa esperienza. Ma non so, non credo, se li chiami dovrebbero arrivare. Dovrebbero intervenire. Poi, se è capitato, vabbè. Però insomma l'importante è che se si aumentano le pene poi ci sia... Se non sono esecutive, ecco, non serve a niente. Abbiamo Denis D'Alecco, buongiorno Denis. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Cercherò di essere schematico. Bravo. Fa, tre albanesi nella mia villa mi avvelenano il cane. Io, sfortuna loro, ero sveglio, proteggo la mia casa, la mia famiglia. C'è stata una colluttazione, rincorro la macchina col rischio che questi mi accoltellano, mi sparano. Prelevo il dato della targa, entro di velocità in casa, faccio il 113, cioè immaginerei nervosissimo. La centralino del 113 mi dice no, deve fare il 112. Incattatissimo, rifaccio il 112, comunico la targa ai carabinieri. Sì? A 10 km arrestano questo un albanese, perché gli altri due avevano rubato una macchina e sono scappati. Processo di direttissima. Quindi sono intervenuti al volo i carabinieri? Sì, sono stati veramente in gamba, infatti io ho fatto anche i complimenti. Il concetto qual è? Che il giorno dopo, processo di direttissima, vengo convocato. E come va a finire? Va a finire in modo assurdo all'italiana, che l'albanese esce dalla sala del processo, di cui io non sono stato convocato all'interno, mi guarda, si mette a ridere in faccia. Io non capisco, se parlo con il suo avvocato, perché la gente non lo sa, ma sono luna tenenti, perciò ci sono degli avvocati in questo caso. Certo, gli avvocati d'ufficio, sì. Ufficio, che seguono loro. E allora? Allora cosa è successo? Mi guarda, si mette a ridere, io nervoso voglio capire la situazione, e questo avvocato mi dice è libero. Come è libero? Tre persone, associazione a delinquere, questo è libero. Vado a chiedere delucidazione al magistrato nel suo ufficio. E questo mi dice no, questa è la mia scelta. Ho detto, ma scusi, ma si rende conto cosa ha fatto? In definitiva gli ho chiesto, ma questo signore chi è? E questo mi dice sì, sappiamo nel casellario che ha ricettazione falso. E io, allora chiedo, ma scusi, in tre associazione a delinquere, falso, truffa, ricettazione, tutto, lei non lo mette in galera neanche per una notte, una 24 ore? E allora io ho cominciato a litigare. No, e lui cosa gli risponde, perché siamo in chiusura? Il magistrato in definitiva ha processato questa persona, perciò nome e cognome di questa persona, su una tessera sanitaria falsa della regione Lombardia. Il concetto qual è? Che io ho vissuto sulla mia pelle questa realtà e non ha avuto giustizia. Ho paura di quello che può succedere. Una cosa velocissima, visto che c'è poco tempo. Sì, zero. Voglio fare i complimenti per una sua famosa intervista. No, vabbè, ma non si preoccupi. No, si chiama Blue Moon. Vorrei che tutti gli italiani vedessero questa. Vabbè, la ringrazio. Pubblicità. Mix 24. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Chi si ti d'acqua e da io si ti d'amuri. Agula canto la me canzoni. Faccia lui, allora Pietrangelo, Allora la sete, la sete, perché bagnati dall'acqua di una fresca sorgente avevano ancora sete oggi cinque cadetti dell'Annunziatella arrivati da Napoli alla Nagnina, che è il capolinea della metropolitana da sud. Erano arrivati per la loro giornata di libera uscita da passare a Roma, e siccome ci vuole tanta notte per accendere il giorno e tanti sorsi di sorgente sono quelli che accendono la sete più viva, questi cinque soldati oggi erano vivi di più forte sete e portavano ciascuno un segno: chi la luna in tasca, chi una stella improvvisa, chi il vento che tutto asciuga, chi la marea dormiente e chi, più di tutti assetato, il silenzio dell'attesa nell'incendio raggiante del sole. Brucia la terra e lui, loro cinque, bruciano. Avion Travel brucia la terra. Rassicuro tutti i nostri ascoltatori che so che Helsinki è in Finlandia e non in Svezia, però c'è stato un misunderstanding. Vabbè, no, mi sono sbagliato, chiedo scusa dell'errore. Bolla. Dai. Fatto partire il pezzo proprio col cantato, era bello sentirlo anche con la musica, perché sotto c'è, senti, facciamo sentire sta musica. Mamma mia, vai. Alan Parsons Project, questo aveva cominciato facendo i suoni per i Pink Floyd, primo brano inciso col sintetizzatore è suo. Accidenti. Beh, chiama, proviamo ad andare sulla politica. Sui droni di Obama. Sui droni di Obama. Allora, molto interessante. C'è tutto un bel reportage con documenti segreti pubblicati da The Spiegel e da The Intercept, che è un sito che si occupa di queste cose, segreti, cose varie, diciamo. Insomma, a Ramstein in Germania c'è la base operativa degli Stati Uniti per la guerra con i droni. Vengono pubblicati i dettagli di come funziona questo sistema satellitare. Uno dice, vabbè, ma tanto è in Germania. E no, ma ci riguarda. A parte che i droni devono fare le guerre anche un po' per noi nel Mediterraneo. Ormai i droni fanno tutto. Quindi esatto. Poi fanno anche la spesa. L'altra cosa interessante è che viene citata Sigonella, dove, voi sapete tutti, c'è un'altra base importante. E insomma, l'Air Force ha chiesto 15 milioni di dollari per ampliare la base e soprattutto per costruire un sistema che replica esattamente quello di Ramstein. Perché? Per fare un backup. Cioè, se dovesse andare qualcosa storto in Germania, se abbiamo la copia in Sicilia, il comando passa alla Sicilia. La conclusione qual è? Che la guerra dei droni decollerà anche dalla Sicilia. Sei contento, Pietrangelo? Se gliela fanno fare i siciliani. Nelle mani di Crocetta, figurati. Certo. No, lì è territorio americano. Sì, abbastanza. Salamino! E questa è l'età beata in cui i giornalisti vanno in televisione per difendere il governo, mentre i parlamentari della maggioranza dello stesso governo lo attaccano. E come si suol dire, cosa sono? Sono giornalisti? Sono un giornalista di regime, so raccontare male sopraffine. Giornalisti di regime per far vanto dell'Italicum che procede dritto come un treno. E certo, caro Mario, perché l'Italicum che traccia il solco, ma è Maria Elena Boschi che lo difende. Tra 10 giorni sarà legge, ha detto Matteo Renzi. Dura lex, sed lex. Dopodiché Renzi è beato e i giornalisti lo applaudono in questo senso, perché dice: apriremo subito la stagione dei diritti civili. E quindi ci sarà lo ius soli, cioè la cittadinanza per tutti, e poi unioni tra coppie dello stesso sesso, mascoli con mascoli, femmine con femmine, e l'Italia con Renzi come sarà? L'Italia con Renzi sarà più bella e più superba che pria. Più bella e più superba che pria. Oh, beh. Più bella è più superba. Fermate. Che Bria. Fermiamolo. No, sì, Renzi non si fermerà mai. Poi oltretutto sta vivendo queste giornate beate, ha incontrato i partigiani di 90 anni che gli hanno detto vai avanti, e poi questi stessi partigiani però ad Alessandria hanno impedito che arrivassero Maria Elena Boschi e lo stesso ministro Andrea Orlando, considerando che sono membri e ministri di un governo che va contro la Costituzione. Però Renzi dice che i partigiani sono in allarme, sono preoccupati, gli hanno detto sì. Beh sì, perché loro si accorgono di quello che sta succedendo, perché in Liguria rischia di perdere il Partito Democratico, dicono i partigiani, in Veneto sì che perdono, questo lo dico io, e poi con Berlusconi, dicono i partigiani, c'è Salvini, e Renzi lo ha raccontato allarmato che c'è Salvini con Berlusconi, e se lo fa spiegare dai partigiani chi sono gli avversari di Matteo Renzi. E allora questa è la domanda che ci domandiamo: chi sono gli avversari di Renzi? Lì nel triangolo rosso già hanno individuato i nemici più pericolosi. Ora non c'è più Silvia Sardone, che è già stata oscurata da Andrea Ruggeri, che è il formidabile neo responsabile delle presenze televisive. Ma no, il nemico di sempre ovviamente è Silvio Berlusconi, che però dal canto suo, come dicono i colti, è diventato un obiettivo dell'ISIS. Alla fine io l'ho capito che cosa temono i partigiani. Loro e Renzi con loro, insomma tutti insieme, resistenti, mettiamoci pure Mattarella che resiste sempre. Sapete cosa temono? Questo. Il Calippo temono, perché tornerà. Anche i partigiani, dici? Certo. Beh, intanto testimoniano. Io mica ho capito. E difendono. Chi? I partigiani, ho capito. Partigiani. Perché sono dei partigiani contemporanei, secondo me. Sono quelli che hanno fatto la resistenza. A chi ti riferisci, quelli della quelli, storia? Quelli sono i partigiani. Io credevo ce ne fosse una versione contemporanea. Oggi, racconteremo oggi una storia molto bella di resistenza a Roma, la storia di un quartiere, il Quadraro, che parlerà di questa resistenza. Mario, Silvana, come tante altre che scrivono, sì, ci dicono: Mario Secchi è un DJ di alto profilo. Io lo ringrazio. Perché non ho organizzato una serata con lui? Una serata musicale, potremmo far sapere dove ti esibisci. Ma non sono intanto, così radical chic. Intanto, Sara, cosa ci racconti oggi? Siete stufi che il vostro fidanzato o i vostri genitori spulcino la cronologia degli argomenti e dei siti che avete visitato con il vostro computer? Bene, adesso, per chi ancora non lo sapesse, c'è un modo per evitare tutti questi controlli, ma ad una condizione. Dovete usare il browser di Google Chrome. A quel punto andate fiduciosi su Strumenti, che si trova in alto a destra. Si aprirà una finestra dove leggerete Nuova finestra di navigazione in incognito. Cliccate la vostra libertà. Gelosia è come la pazzia, si vede fantasia. Ancora una bolla. Vai. Questo baccano, che succede? È la stampa, bellezza. La stampa. E tu non ci puoi far niente. Niente. Ragazzi, big day. Oggi c'è l'assemblea degli azionisti del Corriere della Sera. RCS. Il giornalone, no? Sapete tutti. Certo. Votano il bilancio. Ci sono le liste per il CDA. CDA. E dicono tra una settimana Ferruccio De Bortoli o quando sarà lascia la direzione. Allora io devo interrogare voi su questo, perché sapete che il Corrierone è la cosa più importante dopo la presidenza della Repubblica. Che ne dite? Chi fanno? Io non ho capito. Io penso che è più importante il direttore generale della Rai del direttore del Corrierone, che viene fuori il grande amore alla fine. Però sicuramente andrà il migliore. Beh, uno poteva essere Mattarella, ma l'hanno già messo al Quirinale. Quindi non lo so. Bisogna vedere tra le andrà il migliore. Tra le quinte, vabbè, le seste. Facciamo una cosa. Andrà il migliore. Sarà quel che sarà. Facciamo così. Andrà il migliore. Noi siamo felici, bene, perché poi vogliamo bene anche al Corriere. Però vogliamo salutare Ferruccio. Assolutamente. Ciao Ferruccio. Ma siamo senti sicuri? Qua. E chi lo sa? Chi lo sa? Senti. Have a nice day, vai. Chissà. Intanto canzoniere. Rapido. Preferirei essere un rosolaccio in una siepe che una rosa d'allevamento nelle sue buone grazie. E preferisco avere l'odio di tutti che simulare per conquistare la simpatia di questo o quello. Come adulatore non sarò un granché, ma come malfattore sono trasparente. 800240024 numero verde 349-238-6666 SMS pubblicità. Mix 24. La playlist di Mario Secchi, ragazzi, forza. Questo è un brano leggendario, Logical Song, Super Tramp, senti qua che roba, sentiamola, eh? E parte. Ma sei drums. Sicuro di voler dare anche delle notizie? Eh? Sì, sicuro, ogni tanto, nel pubblico anche. Ogni tanto facciamo anche degli scoop così, come quello veramente grosso, secondo me molto bello, che ha pubblicato il New York Times sulla fondazione dei Clinton. Ragazzi, è partita la campagna elettorale, anzi la campagna presidenziale in America, e bordate a tutto spiano. Insomma, il New York Times ha pubblicato questa storia meravigliosa delle donazioni fatte da un gruppo di aziende, tra cui ne spicca una che si chiama Uranium One, alla fondazione di Clinton. Parliamo di milioni e milioni di dollari, e insomma c'è un plot sotto, una concatenazione di eventi, per cui una storia, diciamo, una storia per cui le donazioni corrispondono a certi atti poi fatti tra le aziende e le autorità pubbliche. E ragazzi, è uno scoop pesantissimo. E cioè? E sai, parliamo di decine di milioni di dollari dati mentre la Clinton era anche al Dipartimento di Stato, mentre suo marito Bill andava a fare delle conferenze in Russia, perché il tema è che poi questa azienda è finita nelle mani della Rosatom, che è una delle più grandi aziende del mondo, di fatto, che controlla tutta la filiera produttiva dell'uranio. Beh, ora capisci che è una storia grossa, che pazzesca. Ne sentiremo parlare molto. Marco da Bergamo per il canzoniere. Buongiorno. Marco, buongiorno. Allora? Molto rumore per nulla di Shakespeare. Giusto! Scusate, troppo, c'è una cosa. Traffico pendente. Il grande, il gigante Shakespeare nacque oggi. Quindi, accidenti, e li facciamo fagiolo. Si sa tutto qua. Si sa, diciamo, tutto. Bravo Marco. Nacque oggi. Grazie. Ha vinto. Ha vinto Salamino. È nato oggi, certo. Sì. Oggi è la giornata, e anche oggi è la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Tanti eventi pubblici, molti tweet e dirette televisive. Tutto questo nel frattempo che chiude in Italia una libreria al giorno. Oggi è la giornata, come tante, della retorica un tanto al chilo, ed è dedicata al libro, oggetto sconosciuto per eccellenza, perché proprio in Italia, che è la culla di infinite trame di civiltà, i libri sono diventati biglietti da visita a uso di parlamentari tromboni, per esempio, spesso bisognosi di ghostwriter, e perciò con giornalisti che vi prestano opera nel ruolo di autisti, perché a questo si sono ridotti ad essere i libri. Sono le auto blu dei parvenuti del potere, sempre più analfabeta e sfrontato. E la giornata mondiale del libro certifica in Italia l'asfissia di un mercato più che crepato per scarsa qualità dell'offerta. Spinazzola, un critico letterario, ha già spiegato che Fazio e Severnini, per esempio, fanno il mainstream, ed è un mercato dove gli ultimi tutti in mainstream, piedi, ha detto una parola inglese, fuoco, butta ha parlato fuoco. Come la perfida Albione. Applauso. Terribile. dubbi, applausi a scena aperta. Beccato. La regia ha reagito. Io mi adeguo alle indicazioni di un illustre critico letterario. Certo. Allora, questo è un mercato dove gli ultimi piccioli vanno a perdersi nel mare grande del monopolio, ed è un mercato assassinato dall'indifferenza degli italiani, eccellenti clienti del nulla. E io una dedica la devo fare. Falla. Apro le virgolette e leggo: se si è così fortunati da leggere il libro giusto al momento giusto, allora sì, è quasi il soprannaturale che ti aiuta quando serve. Almeno così è successo nella mia ormai lunga vita, che è stata scandita passo dopo passo dai libri. È Elvira Sellerio a parlare. E la giornata mondiale del libro è ogni giorno, e quindi questo è un colpo la poesia basso in forma di musica. Se fosse fuoco arderei il mondo, se fosse vento lo tempesterei, se fosse acqua io l'annegherei, se fosse Dio manderella in profondo. Un grande pensiero a un gigante dell'editoria, Elvira, hai fatto bene. Ecco, per ricordare la resistenza, oggi raccontiamo una storia particolare. Marina, che storia raccontiamo oggi? Sì, come dicevi Giovanni, è la storia del Quadraro, quartiere a sud di Roma. È una resistenza popolare abbastanza sconosciuta ma eroica all'occupazione tedesca. Quindi interessante, particolarmente interessante. Speriamo. Bene, per chi si fosse perso un pezzo di questa puntata, naturalmente può ascoltarlo in replica questa sera alle 23, come tutti i giorni. Prima della pubblicità, Ti vorrei sollevare, di Elisa con Giuliano Sangiorgi. Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce, un pensiero che si riempie di te. Si fa leggero come l'aria prima che il tempo ci porti via, ci porti via.